Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Antidoto. Oggi è il 2 di agosto 2023. Quella voce che sentite adesso nelle vostre cuffie o tra pochi secondi nelle vostre cuffie è la voce dello zio Fred, Federico. E il suono che sentite sotto è una traccia da Yara Mekawee, Radio Submarine, che si chiama Tina Tamokua, Walking on a Albanoia Street, pubblicata 27 giorni fa. E quello che sentirete oggi è un po' il mio mood, quindi abbiate pazienza, infilate se vi va le cuffie e buon divertimento. الوقت سنه سلك كبير مكمل يا رب يعطينا واحد صغير كل شيء Sì, certo, capisco. Ti diciamo che non c'è suono, loro di rocce ne hanno, se fanno il piacere di andarvelo a prendere molto volentieri, però io sono in una condizione in questo momento che cioè, addirittura ho dovuto negare ai carabinieri la disponibilità delle chiavi dell'accesso al cavo, perché se succede qualche cosa anche a loro ce lo devo mettere. Sì, sì, cioè, infatti vede che io sono qua per parlare, ecco. La corretta possibile, io cerco nella maniera più semplice possibile di mettere a disposizione certo quello che ha chiesto, però facendo intervenire il custode che ha un pochino più di possibilità. Ok. Allora, io le proporrei questo, se lei fosse d'accordo. Le invio una mail dicendo che a seguito della nostra telefonata richiedo insomma, la possibilità di, attraverso le persone che presenti in qualità di custodi, va bene, ecco, io la mando a lei, non so se c'è un riferimento. Certo, no, ma io la mando dalla mia mail ufficiale del progetto che stiamo portando avanti, mio nome, cognome, tutto quanto, non si preoccupi, certo. Tanto per essere chiari, cerchiamo di darci una mano. Certo, benissimo. Allora io scrivo a lei, poi lei magari sicuramente avrà modo di inoltrare questa mail a Fulvio e Caterina. Perfetto, benissimo, io la ringrazio tantissimo, grazie per il tempo che ci ha dedicato, anche da parte di Lenka che è molto entusiasta. Hieve alle dansers en zangers eendrachtig jankend de hymne der verlichte mensheid op. Wij herkenden het amper. Door de leuningen, treden en armen van de trappen, door de hoekige bochten, waren de stramme akkoorden kramig, vermolkt en verminkt. Zodat het tenslotte voor ons stond in de bloedige, besneeuwde gedaante, met het kapotgescheurde, vuile jurkje van een meisje met wie men alles gedaan heeft. We horen het. Te midden van deze onvoorstelbaar middelmatige tot onbekendheid gedoemde stemmen bevindt zich een stem van redelijk heilig verdriet. Hij zingt overal wat heen. Gelijk het zweven van een verwonde vogel. Wij horen haar. Rosa van de Wind. De grafbaan. De beste achterlijke oud van de speciale school. Scorciatoie interne più o meno dette, che poi porta a un qualcosa che è estremamente l'ingresso dentro il teatro, il pagare il biglietto, l'esperienza di esperire uno spettacolo in teatro è costruita, anche il camerino è costruita per avere un certo tipo di situazione ben costruita per avere quel tipo di esperienza. C'è lo spazio per portare dentro lo spettacolo del materiale tuo organico fondamentale, non è l'aspetto una delle cose per cui sei stato scelto. I colori sono tutti tuoi, i colori che tu li abbia oppure no, non è mai discusso per quello che sei. Tu usi il tuo trauma per fare uno spettacolo di Tizio e magari esci fuori alla grande, è Tizio che ti viene fuori, ti paga e basta. Quando è finito lo spettacolo, esce fuori lo spettacolo, magari ti ha fatto fare una cosa che è invece che siccome sei bella per il tuo trauma, io ti uso quel brano qua. Quella persona che c'ha quella cosa lì che è sul suo trauma, tu lo usi, metti scelte, meglio che si lascia. Io lo spettacolo, ciao ciao ciao, buonanotte. Ti lascio lì, ti riporto fuori dal tuo trauma. Lo cazzo. Ah, non lo fare, quindi sono io che lo fanno. E ci manco io. Faccio lascio se a Roma. Buona giornata. Grazie. le compagne, anche a te, come dire, sarà anche banale, perché tu non dici, adesso vai anche a vedere, cioè, non importa nessuno quanto lo so, sappia fare quella cosa, per quello che non è, però, però quando poi viene messo al servizio di tutta sta roba ci sto male, quindi mi dico non lo so se mi interessa, cioè se penso no, tipo da qua a 20 anni la, diciamo l'intuizione originaria per cui mi ha messo a fare sto casino 10 anni fa, l'intuizione di tante altre cose che ce ne fanno. Qual è il contesto in cui mi piacerebbe farlo? Qual è? Se devo togliere soldi di teatro, di Black Box, eccetera, eccetera, dov'è che mi piace usare tanto? Quella che chiamo la drammaturgia orizzontale, cioè che siamo tutti partecipanti di questo. Heard it in the wind last night, sounded like applause. Did you get around resounding for you, maybe? Seems like many dim years ago since I heard that face to face, or seen you face to face, but tonight I can feel you here. I get these notes on butterflies, lilac sprays from girls who just have to tell me they saw you somewhere. In some office sits a poet, and he trembles as he sings and asks someone to circulate a soul around. On your mark, red ribbon runner, the caressing rev of motors, find the tune like fancy linen in 30s evening gowns. Up the charts, off to the airport, your name's in the news, everything's first class. And then the lights go up and it's just you up there, getting in the field. Sorrows to the sound of a lonely. Now you're seen on giant screens and at parties for the press and for people who have slices of you from the company. They toss around your latest golden egg speculation. Well, who's to know if the next one in the nest with my teeth sunk in the hand that gives me things I really can't give up just yet. Now I sit up here, the critic, and they introduce some bad luck. Jangan pelan-pelan apa? Kira marah susu wingo. Yeah, you can push it inside. Can be full or not? Full if you have. Not full, because it will suffer with that much. il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti artisti italiani e gli altri. Tra le tante discussioni che prendono quella data, tra i fiori, futuristi sono in interazione. Infatti, i futuristi hanno combattuto il fascismo comunitario con tutte le forze, prudenza diplomatica, logica pessimista, neutralismo, tradizionalismo, culto del libro, biblioteche, musei e professori. Futuristi hanno adorato e adorano la vita per la sua colorata e tumultuosa vacità illogica e la sua bellezza muscolare e sporco. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta o voluta. Creare vivendo, talvolta contadino, affermare, lanciare, battere, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietreggiare mai, marciare non marciare. Nel 1909, mentre i patrioti continuavano a polemizzare contro gli impiegatori della sfognata grande Italia oggi, noi futuristi ci imponevamo a non far fede spavalda e aggressiva con milioni di manifesti e migliaia di conferenze nei teatri e nelle piazze di militanti a noi. Right. squeeze up. We simmer it. Yes, simmer it in ketchup. Yeah. In onion and salt. Thank you. They never see this! Non l'hanno mai visto! They don't know! Cioè, ma che si trovano? Ah, non l'avevi mai visto? Quanti anni hai? 32. Però, effettivamente, sono andato in un negozio dell'usato. I go to the second hand market, no? There is many clock, no? E also, I see this is old, no? No? I don't know, maybe 20, 30, maybe more. No one of these electronic and battery. Ah, yeah, yeah, it's fake. Because it's... Ma you don't find them. Cioè... No? Sì, e adesso... non so. Questi sì, sono tutti pezzi di sveglia che fanno cose belle. Questo è bello anche farci un video. Wow! Formula 1. E lì è una questione di mix, di ascolti, non sono un po' particolare. Non me li pubblicate nel sito, perché io ancora non l'ho fatto vedere nessuno. Oppure sono fatto vedere. Certo, certo. Ma semplicemente perché io non l'ho ancora fatto. Sono più che viene qua. Questo è per restiamo ancora più interna. To the heart, life best. No, yeah, but yeah. But the problem is in Germany, like it's how it's known, this language, you know, the imagery, it is directly connected to Nazi, like caricatures, and also part of the movement, which is part of the and it vertically gets deeply close. Because it's difficult to say when it's made, also when it's made 2000, then it's difficult to say it's more the language from 1920 or something. But it's very difficult to know where is it exactly. Socialist, realist image. It's a little bit the same of the dream of der Wille. It's the same type of imagery because it was fashionable kind of message of the time. Man that can reach the stars. From Kathleen you have the version from Spear. So you cannot avoid it. Sissies don't dare to blame. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the past. A sedan skims along the floorboard. And my mother, it was very interesting what she wrote to me, that in many churches in Germany there are like bad imagery of Jews also. And she said like, yeah, you should also, you know, criticize this and hang it down. And I was thankful that she wrote this, because I didn't think of it. I didn't know that there were still churches that insult. Sometimes I thought that this is just a mirror. You have a lot of anger or hate. Yeah. And you saw something is like a mirror in you. You get angry. Actually, there's nothing wrong with you. Oh my goodness, look at this mess. That's mirror in you. And here, oh my goodness, look at this mess. So it's something like this. Oh my goodness, look at this mess. So because the problem is in your mind. Oh my goodness, i cambiamenti che neanche ci immaginiamo, potrebbe invece ci invitare. Invece noi non vediamo niente, è sempre tutto uguale, perché il nostro tempo è pochissimo. Oh my goodness, look at this mess. Oh my goodness, look at this mess. Sui moscerini. Oh my goodness, look at this mess. Oh my goodness, look at this mess. Schiaffi nel culo. Oh my goodness, look at this mess. Oh my goodness, look at this mess. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Oh my goodness, look at this mess. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Oh my goodness. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Oh my goodness. Nel culo. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Oh my goodness. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Oh my goodness. Schiaffi nel culo. Smash. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Schiaffi nel culo. Smash. Schiaffi nel culo. Fra le parole parole c'è un certo livello di solitudine a cui bisogna rendere omaggio. La solitudine può essere concreta, stratificata. Mi piace il suono del silenzio tra queste due botte di pietra. Mi piace non sapere che si sta facendo o perché. Mi piace sentire il sudore sulla schiena e la polvere nelle mani. Mi piace stare assieme ma anche sentirmi solo. Mi piace giocare col fuoco, con l'acqua, con la neve. Mi piace tessere storie. Mi piace ridere della mia voce quando spiego. Mi piace cantare stonato a rovinare le canzoni. Mi piace camminare in salita e sentire le mie ginocchia che forse non ce la fanno più spingere quel pochino ancora necessario. Mi piace fare un piano e cambiarlo al volo. Mi piace guardarti negli occhi. Mi piace sognarti, darti la buonanotte tutte le sere e svegliarmi dopo averti sognato. Mi piace perdermi nel buio e poi alla fine conoscerlo come fosse casa mia. Mi piace stendere le mani e sentire che potrebbero allungarsi ancora un po'. I tendi che si stendono, che diventano radici di alberi, che entrano dentro la pelle, che sentono molto più di quanto sentano le parole, che sentono molto più della mia voce, dei miei occhi, delle mie orecchie, della mia esistenza.